nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 5 maggio, il sole in regione sorto alle 5.49 tramonterà alle 20.20. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lara Boccalon. Se il Senato darà il via libera presto, potrebbe diventare legge l'articolo di un decreto che passa sotto il nome di prezzo di cittadinanza, che prevede la fissazione di quotazioni minime a livello nazionale per i prodotti agricoli per disciplinare i rapporti tra agricoltori e distribuzione. Il dibattito è già iniziato e non mancano le perplessità. Ne parliamo nel servizio di apertura, per passare poi alla natura dei ruminanti, che dovrebbero mangiare erba, ma la moderna zootecnia sta forzando la mano, con conseguenze che ancora non conosciamo. I finanziamenti in agricoltura, con le ultime novità a livello regionale, sono spiegati nella rubrica delle normative, mentre per la storia dell'allevamento bovino siamo ancora ai primi anni del Novecento. Per lo spazio che dedichiamo ai giardini c'è il calendario di maggio coi principali appuntamenti in regione, mentre la storia della grappa a inizio anni 2000 incontra i primi riconoscimenti di qualità. Andamento dei mercati, previsioni meteo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Il decreto emergenze agricole, già approvato alla Camera, contiene in un suo passaggio un articolo che passa tra gli addetti ai lavori come prezzo di cittadinanza, ovvero la fissazione a livello nazionale dei costi medi di produzione dei prodotti in agricoltura. Si è già avviato il dibattito, oggi ne parliamo con Claudio Filippuzzi, presidente del cluster agroalimentare del Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto, Filippuzzi, ci può spiegare meglio di cosa si tratta? Si tratta della fissazione dei prezzi medi di produzione a livello nazionale di prodotti agricoli, prezzo che viene determinato da Ismea e poi verrà controllato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato. Perché questa esigenza? Per evitare che, come spesso avviene, ci siano dei contratti che poi finiscono a prezzo inferiore a quello che è il costo di produzione. Ecco, chi potrebbe esserne interessato? È interessata tutta la filiera agricola, effettivamente. Ricordiamo comunque che questo riguarda contratti in forma scritta e di durata superiore all'anno. E già qui si può capire le scappatoie. Ma sicuramente sì, basta che fare dei contratti semestrali o di 11 mesi, effettivamente le cose cambiano. Ovvero, non si potrà comprare e neanche vendere dei prodotti al di sotto di questa soglia, questo fissato a livello nazionale, e qui arrivano le vostre perplessità. La fissazione di un prezzo a livello nazionale non tiene conto dell'enorme diversità sia della qualità degli investimenti, delle zone di produzione e quindi anche dei costi di produzione, e non tiene neanche conto della stagionalità delle produzioni. A fissarlo, ci ha detto, dovrebbe essere l'ISMEA a livello nazionale. Nella vostra proposta, che è una proposta invece regionale, come potrebbe funzionare? O l'ISMEA si attrezza con centinaia di addetti in grado di capire quali sono le differenze territoriali e le metodologie di produzione, altrimenti la soluzione più facile è quella di affidare questo tipo di processo alle regioni che sono attrezzate per conoscere bene qual è il loro tessuto produttivo agricolo. Però a livello regionale ci sono delle realtà che poi colloquiano commercialmente a livello nazionale. Come la mettiamo? Questo non cambia. Il fatto di legare le produzioni al territorio è uno dei fattori, diciamo, di differenziazione e di valorizzazione delle produzioni, e quindi è normale che sia così, che ci siano questi tipi di legami e anche questa differenziazione di prezzo. Non si potrebbe innescare, a suo parere, una guerra dei prezzi da regione a regione per essere più competitive, magari appunto in questo ambient andare al ribasso? Una guerra dei prezzi c'è già di fatto, e non soltanto a livello nazionale ma a livello internazionale. Quello che è pericoloso è il fatto che ci sia un appiattimento in basso per cercare di essere tutti competitivi sullo stesso prezzo, perché se il prezzo di riferimento diventa unico a livello nazionale, effettivamente allora tanto vale che tutti si adeguino e cerchino di andare in quella direzione. Questo significa, pensiamo, un abbassamento anche della qualità delle produzioni e un abbandono della differenziazione delle peculiarità territoriali. Ecco, abbiamo parlato finora solo di perplessità, invece chi potrebbe trovare giovamento da questa nuova uniformazione dei prezzi? Probabilmente i prodotti che sono meno legati a un discorso territoriale, che non hanno una così grande identificazione, ovvero produzioni più da stock, che possono essere ad esempio un discorso legato a cereali, a grandi produzioni, ecco, queste sì. Quello che invece ha una forte imprinting sul livello territoriale assolutamente no, e potrebbe anche subire dei contraccolpi negativi. La moderna zootecnia si è dimenticata che i ruminanti sono fatti per mangiare erba, spingendo le loro diete fino alle farine di carne, ma prima o poi questi nodi arriveranno al pettine e, come dice Enos Costantini in questo corsivo, ci scapperà il morto. Dopo che ho dato i numeri dei polli sul nostro pianeta, una gentile ascoltatrice mi chiede se so quanto mangime serve per produrre un chilo di carne di bovino e quanto ne serve per un chilo di pollo. Certo che lo so, ma non posso esimermi dall'articolare la risposta nei seguenti punti. Punto primo, le ascoltatrici sono sempre gentili. Punto secondo, comparare bovini e polli si può fare solo per le implicazioni sociali e ambientali che comportano queste diverse specie. Punto terzo, un discorso sull'indice di conversione degli alimenti nei bovini tedierebbe le ascoltatrici di Barcola, di Servola e di Chiarbola, così come quelle di Surisins, di Pantianins e di Domanins, e ci vorrebbero 24 puntate di Vita nei Campi solo per introdurre l'argomento. Qui intanto diciamo che i ruminanti, come bovini, ovini, caprini, ma anche gli gnu della savana, i bisonti della prateria, l'uro selvaggio che ha dato il nome a Turriaco, le renne della tundra, i dromedari del deserto e i cammelli della Battriana sono nati per vivere di erba, in assenza della quale provvedono i licheni, la sterpaglia spinosa, le foglie verdi e le foglie secche, insomma ciò che gli zootecnici chiamerebbero fibra, la quale è formata almeno in parte da cellulosa che fornisce energia. La cellulosa per i ruminanti è quello che è l'amido per i non ruminanti, come l'uomo e il maiale. La cellulosa si forma come l'amido grazie alla fotosintesi clorofiliana, cioè grazie al sole. Nel rumine dei ruminanti ci sono miliardi di microrganismi che fermentano la fibra e le sostanze di rifiuto dei microrganismi diventano nutrienti per il ruminante. Miracoli della natura. La zootecnia moderna vorrebbe che i ruminanti fossero senza rumine. In effetti, se avessero uno stomaco solo, come gli umani e come i suini, consumerebbero solo i mangimi dell'industria mangimistica, dove ha larga prevalenza il mais, con quella compagna di merende che si chiama soia. In un'epoca in cui ai carnivori da compagnia si danno vegetali salutisti, figurarsi se agli erbivori stretti, quali i bovini, non si dava carne, e per giunta di altri bovini. Questo a milioni di bovini, finché ci è scappato il morto, ma tra gli umani. L'accesso al credito è un tema molto sentito anche dalle imprese agricole della nostra regione. Marco Malison, responsabile tecnico economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, ci spiega le ultime novità in arrivo dalla regione. Sì, lo scorso novembre, in sede di variazione di bilancio, la Regione ha approvato una norma che mira a facilitare l'accesso al credito delle imprese agricole. Sul bollettino ufficiale del 17 aprile è pubblicato il regolamento che rende operativa la legge. Si tratta di contributi in conto capitale per l'abbattimento delle commissioni sulle garanzie. Ci faccia capire. Se l'azienda cerca un finanziamento presso una banca qualsiasi, questa sarà tanto più disposta a concederlo quanto maggiori sono le garanzie di solvibilità prestate dall'impresa. Questo vale anche per le operazioni realizzate tramite il fondo di rotazione in agricoltura. Frequentemente le garanzie sono richieste rilasciate dai Confidi o dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo, anche chiamato ISMEA, che però a loro volta applicano commissioni e spese di istruttoria della pratica, quindi ulteriori costi che si sommano agli interessi sul capitale. Chi può accedere ai finanziamenti e per quali operazioni? L'aiuto è indirizzato a tutte le micro, piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia che producono prodotti agricoli o li trasformano o li commercializzano. Le spese ammissibili riguardano tanto le commissioni di garanzia quanto le spese di istruttoria della pratica a fronte di finanziamenti finalizzati ad investimenti o anche alla semplice acquisizione di liquidità. Ci sono priorità graduatorie nelle domande? No, non ci sono scadenze né graduatorie, in quanto gli aiuti sono erogati a sportello, secondo l'ordine di presentazione delle domande e fine esaurimento dei fondi. I richiedenti potranno ricevere aiuti nei limiti previsti dal regime de minimis, che, lo ricordiamo, varia da 20 a 200.000 euro in un triennio a seconda che l'attività finanziata riguardi la produzione primaria oppure la trasformazione e la commercializzazione. L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili. Ma quante sono le risorse disponibili? Attualmente sono accantonati in bilancio 100.000 euro. Se immaginiamo che i costi di commissione possono variare fra il 3 e il 5% sul capitale finanziato, possiamo stimare che le disponibilità attuali siano sufficienti a coprire commissioni su garanzie per circa 2 milioni e mezzo di euro. Ci sono vincoli particolari poi? Uno solamente, il beneficiario ha l'obbligo di comunicare l'eventuale estinzione anticipata della garanzia nel caso ciò determini un rimborso anche parziale delle commissioni. La mancata comunicazione comporta la revoca dell'aiuto e il recupero delle somme erogate. Nella scorsa puntata, dedicata sempre ai bovini, con Sandro Menegon abbiamo accennato alla loro drastica riduzione nella parte occidentale della pianura della loro provincia di Udine e del ripopolamento postbellico della razza bigialpina. Quindi la puntata di oggi e le altre saranno riservate al rimanente territorio della regione. Sì, dovendo dedicare più puntate alla pezzata rossa, mi soffermerei prima sulla pugliese del Veneto. Nella zona della bassa pianura bonificata in fase di bonifica, utilizzavano, grazie alla loro capacità dinamica e al loro facile adattamento, animali pugliesi del Veneto acquistati fuori regione. In particolare risultavano presenti nell'azienda Corinaldi di Torre di Zuino poi Tor Viscosa, nella zona di Palazzolo della Stella, nella tenuta Valle Pantani Lovato Latisana oggi Lignano e nell'azienda Cavescova d'Aquileia. Quindi d'ora in poi pezzata rossa. Come più volte cenato, la guerra e l'invasione ridussero drasticamente la consistenza dei bovini pezzati rossi, la cui popolazione aveva raggiunto un discreto grado di omogeneità. Già durante l'invasione si provvide ad ammassare in Toscana, terra di esportazione di bestiame frullano, 2150 capi da reintrodurre in Friuli a guerra terminata. Nel 1919 vennero approvati per la pubblica monta 145 tori pezzati rossi, 88 di provenienza svizzera e 57 risparmiati dall'invasione, ai quali si aggiunsero nel 1920 altri 62 torelli svizzeri. Tra il 1920 e il 21 venne istituito il sindacato trattenutari di pubbliche stazioni taurine della provincia di Udine, in seno alla quale si costituì la sezione per la regione dell'allevamento della pezzata rossa friulana. E ci furono altre iniziative? Il concorso provinciale di tori di razza pezzata rossa frullana, sospeso nel 14, riprese con la 12ª edizione nel 22. Nel 26 iniziarono i primi controlli funzionali, a partire dal 27 si formarono i primi nuclei di selezione e nel 29 si istituì il libro genealogico della pezzata rossa friulana. Si proseguì l'importazione di torelli dalla Svizzera al cantone di Friburgo, nella speranza che fossero meno selezionati per la produzione lattea, non volendo compromettere l'attitudine della produzione della carne e l'attività dinamica. Mese di maggio, la stagione dei giardini entra nel vivo. Franca Merluzzi oggi ci dà una panoramica di tutti gli appuntamenti, ovviamente di prima grandezza. Maggio è tempo di fioriture e di manifestazioni dedicate ai giardini in molte località della regione. I programmi si presentano ricchi di iniziative ed eventi a tema. Consultiamoli in anticipo per un nostro promemoria. A Trieste è iniziata la rassegna Rose, Libri, Musica, Vino. Ogni venerdì di maggio il rosetto del Parco di San Giovanni diventa l'aula magna per lezioni universitarie aperte a tutti, cornice per presentazioni di libri e momenti musicali al tramonto. Sabato 11 e domenica 12 ritorna presso l'abbazia, con quella vista incantevole sui vigneti circostanti, la manifestazione Rosazzo da Rosa. Sabato 18 e domenica 19 maggio ad Osopo si tiene la festa nel paese delle orchidee, con escursioni guidate per ammirarle dal vero, conferenze, degustazioni e l'apertura dei giardini presso Borgo Olivi. È un'anticipazione di quello che avverrà domenica 19 maggio in tutta la regione, l'attesissima manifestazione Giardini Aperti, unica in Italia per il numero di giardini privati che vi aderiscono. Quest'anno ricorre il decennale e per festeggiare il Circolo Amici in Giardino organizza a Pordenone, sabato 18, Musica in Fiore, un concerto nel Parco Galvani con visita al Roseto. Domenica 19, dalle 9 al tramonto, i giardini saranno visitabili da tutti in 71 località della regione, un'occasione per conoscere i proprietari, le loro collezioni e le loro passioni. Alcuni sono giardini privati che aprono per la prima volta. Quest'anno aderisce a Giardini Aperti anche la scuola primaria di Faedis, con il suo orto didattico. Una bella novità che ho voluto approfondire. E ho scoperto che a monte c'è un progetto serio di agricoltura didattica che le maestre portano avanti con i bambini assieme al comune di Faedis, genitori, nonni, associazioni del paese. Un progetto per un apprendimento condiviso. Assieme si imparano tante cose sull'alimentazione, le piante, la cura di sé e dei luoghi. I lavori fervono. Ripristinata la serra, si preparano le piantine nei vasetti. Nell'orto ogni classe ha la sua aiuola contrassegnata da un colore. Qualcuno lavora al filare di viti con pali a forma di matita colorata, altri si occupano delle aiuole, dell'angolo delle erbe officinali, delle bordure con i sassi recuperati dal terreno. Tutto deve essere pronto per l'orto in festa. Dalla scuola un segnale di speranza nel futuro. Gabriele Cagliazza con la sua storia della grappa è arrivato agli inizi del 2000, quando tra alti e bassi di produzione arrivarono anche i primi riconoscimenti di qualità. Fra il 1990 e il 2008 il numero dei consumatori di grappa in Italia passò da 5,2 a 8 milioni, facendo registrare un incremento del 53,85%. Per la maggior parte si trattava di individui adulti in grado di vivere la grappa come un distillato sano, genuino, semplice e naturale, da assaporare con calma, in tranquillità, come qualcosa che ha a che fare con la lentezza, insomma uno spirito slow rispetto a quello di altri alcolici da trangugiare d'un fiato. Progresso dovuto anche alla graduale comparsa di una nuova figura di consumatore evoluto, interessato a nuove esperienze sensoriali, attore attivo e critico informato, grazie al quale è stato possibile elevare definitivamente la grappa a prodotto di pregio, capace fra tipologie ormai considerate evergreen, intramontabili, e nuove varietà, di conquistare una dopo l'altra tanto la fascia giovanile quanto il vasto pubblico femminile, come esplicitamente riconosciuto dagli analisti. Se alla metà del primo decennio del terzo millennio il mercato interno mostrò una leggera flessione, che nel 2006 fu pari a un calo del 2%, l'esportazione invece fece registrare un netto avanzamento, valutato nel 2007 superiore all'11%, così da portare la proporzione fra consumo interno ed esterno sul 90-10, 9-1, ancora con minima prevalenza del consumo in contesto domestico, il 51,4%, rispetto a quello riscontrato nell'ambito della ristorazione professionale. Alla congiuntura piuttosto critica provocata dal calo dei consumi interni, unito ai sempre più rigidi controlli imposti dalle riforme al codice della strada, le poche distillerie ancora attive in Friuli fecero fronte non soltanto curando maggiormente l'export, ma anche coordinandosi per definire e condividere un disciplinare comune e ottenere così dall'Unione Europea il riconoscimento di un'indicazione geografica, IG, esclusiva per la grappa friulana. All'inizio del 2008 fu effettivamente emanato il regolamento europeo numero 110 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e in esso, fra le diverse categorie contemplate, fu rigorosamente delimitata anche l'acquavite di vinaccia, per la quale si prevede esplicitamente l'IG Grappa Friulana o Grappa del Friuli, specificando come l'origine geografica precisa dovesse poi essere descritta anche nella scheda tecnica prevista a corredo della domanda di registrazione, al fine di illustrare i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare. Ed ora con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento ancora con tendenze a ribasso venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole a Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,10 e 16,30 euro al quintale IVA esclusa. Il frumento buonomercantile tra 19,50 e 19,80 e la soia tra 32 e 32,50. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è diminuito di 1,20 euro e quello della soia di 5,50 al quintale. Scambi positivi con prezzi rallentati causa il maltempo al mercato ortofrutticolo di Udine, dove l'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono pagate nella media tra 0,80 e 1,20 euro al chilo IVA esclusa, la cicoria tra 0,90 e 1,10, le zucchine tra 1,20 e 1,30, la scarola riccia tra 2,60 e 2,70, le melanzane tonde tra 1,20, pomodoro italiano in grappolo tra 1,80 e 2 euro, i finocchi tra 1,30, il radicchio rosso tondo tra 1,50 e 1,60, i peperoni gialli e rossi tra 2,30 e 2,50, i cavoli tra 1,20, gli aspargi tra 4 e 5 euro, i kiwi tra 1,50 e 1,80, le fragole tra 3 a 4 euro e le arance tarocco tra 0,90 e 1,70. Nel settore della pesca, in questo periodo che le condizioni meteorologiche sono buone, si rilevano effetti positivi con prezzi stabili. E alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 28 a 34 euro al chilo al netto dell'IVA, le orate a 7 euro, le sogliole da 8 a 25, le canoce da 15 a 19, le seppie e i latterini a 8 euro al chilo, i gamberetti di laguna da 15 a 18, le anguille a 16 euro, i palombi da 7 a 15 e le capesante a 14 euro al chilo. Infine, scambi fermi nel comparto degli avicoli con i polli a terra pagati tra 1,12 e 1,14 euro al chilo, i tacchini maschi a 1,40 e 1,42, le faraone tra 2,30 e 2,34, le anatre tra 2,35 e 2,39, i conigli oltre 2,5 kg quotati dal CUM di Verona tra 1,99 e 2,05, mentre il prezzo delle uova oltre 73 grammi è di 14 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer Marcellino Salvador sentiamo cosa ci riserverà il tempo nella settimana entrante. Aprile ha portato precipitazioni abbondanti in regione, specie nella destra Tagliamento, dove si sono registrati valori almeno doppi rispetto alla norma e di circa 300 mm in pianura e fino a 800 mm sulle prealpi carniche, di cui una parte sotto forma di neve. A proposito di neve, lo strato che si è accumulato domenica scorsa, con punte di 70-80 cm di neve fresca a Sauris, Piancavallo e altre località oltre i 1000 metri per l'area Prealpi Carniche e Carnia a ridosso del Cadore, è stato da record per aprile in sole 24 ore. Tornando alla pioggia, sull'Isontino ha piovuto meno, con valori sotto i 100 mm, unica area della regione sotto la norma del mese. Per la temperatura, invece, la media di aprile è nella norma, con delle oscillazioni importanti. La giornata di oggi, decisamente fredda per la stagione, ha dei precedenti, in particolare nel 91, quando fece freddo per tutta la prima decade di maggio, stabilendo un piccolo record per le temperature medie che non è stato neanche mai avvicinato in seguito. Da domani la depressione si sposterà verso sud-est e il tempo migliorerà con cielo variabile, senza precipitazioni. Le temperature massime risaliranno attorno ai 15 gradi in pianura. Martedì il cielo sarà sereno, mentre dal pomeriggio avremo cielo poco nuvoloso. Con cielo probabilmente sereno e senza vento significativo, durante la notte tra domani e martedì la temperatura scenderà decisamente, specialmente in montagna e sulle aree innevate, ma anche in pianura si potrà scendere a valori attorno ai 4-5 gradi, ad un'altezza di 2 metri dal suolo. Il tempo rimarrà bello fino a mercoledì pomeriggio. Poi nella seconda parte della settimana correnti atlantiche riporteranno aria umida, nuvole e piogge, in un contesto di tempo incerto che è tipico della nostra primavera. Termina qui la puntata, vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana: se in mai tampieste, nie non reste, ovvero se grandi nel mese di maggio non resta nulla da raccogliere. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Lara Boccalon e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?